imposta, no? Ovviamente, quando parlava delle potenze occidentali, noi non possiamo semplicemente pensare che la responsabilità di quel conflitto ricada solo sul sanguinario Assad o sui fanatici dell'ISIS, no? È un consesso di potenze che gioca una partita importante nel quadro della geopolitica di quella regione, potenze che hanno le loro centrali economiche, finanziarie e politiche nel mondo occidentale soprattutto. Per cui non possiamo esimerci dalla responsabilità di non dover impegnarci nel sostenere la battaglia di coloro che si oppongono a questo tipo di logiche. E il caso di Afrin, il caso del Rojava e di tutte le aree dove si è potuto organizzare una vita sociale e pensare a un domani diverso rispetto alla prospettiva della guerra, della dittatura, della violenza, dell'assassinio. Lì si è parlato di genocidio, ma quanti genocidi noi ancora dobbiamo scoprire sono stati fatti in quelle zone sulla popolazione civile e non solo. Questa necessità del cambiamento è un messaggio fortissimo, perché in una prospettiva nera come quella della guerra ci viene data un messaggio di speranza, no? Questa speranza però si basa su dei valori che non sono quelli del fanatismo religioso, né tantomeno su quello dell'autoritarismo dei vari sistemi che si giocano la partita lì nel Medio Oriente, ma si basa su dei valori totalmente altri, quasi impensabili a noi oggi in Occidente, no? Cioè valori come l'uguaglianza di genere, valori come punto della democrazia diretta. Il termine democrazia andrebbe poi declinato per quello che noi conosciamo noi oggi, qui la nostra è una democrazia di tutt'altro tipo. Il fatto della rotazione degli incarichi, il fatto della cooperazione, dell'autogestione nel campo economico, sono questioni importanti che si, diciamo, si impongono nel momento in cui uno pensa a un altro tipo di società. Ecco, il libro che presentiamo stasera, Mario Bucci è morto nel 2006, per cui non poteva immaginare quello che sarebbe accaduto ad Afrin o nel Rojava. Però Bucci c'entra in questa storia. C'entra perché, pur essendo un uomo del Novecento, Bucci ha un lungo trascorso politico nella sinistra rivoluzionaria statunitense, no? Dal marxismo rivoluzionario, dal un suo primo approccio al trotskismo, passato attraverso l'anarchismo socialista, per poi arrivare a un'elaborazione propria di pensiero libertario, mutuando quelle che erano anche nuove esigenze che nel panorama americano degli anni 60-70 stavano emergendo, soprattutto legati a un diverso approccio sulla questione ecologica, no? Tant'è che Bucci è conosciuto da tutti come uno dei padri fondatori dell'ecologia sociale. Pur essendo un uomo del Novecento, ci ha lasciato una grande eredità per il XXI secolo, perché lui non ha mai smesso di pensare alla possibilità di realizzare il sogno utopico di una società di liberi uguali. Ovviamente si è scontrato, essendo un uomo del Novecento, con le ideologie che hanno, diciamo, egemonizzato il pensiero del Novecento, in primis col marxismo-leninismo, ma non solo, ma anche con molti aspetti del liberalismo. E lui ha tentato un'elaborazione originale, su cui possiamo anche in certi aspetti non essere d'accordo, ma comunque è uno sforzo originale di interpretare la volontà del cambiamento attraverso un percorso concreto, realizzabile attraverso una prassi che non sia semplicemente una prassi, diciamo, legata a uno schema teorico, ma che sia una prassi concreta dove l'individuo e la collettività, attraverso una pratica di democrazia diretta, acquisisca quegli elementi di conoscenza, di consapevolezza di sé, della propria forza, che sia, diciamo, come centro fondamentale del cambiamento. Ora, Bucin, questa raccolta di scritti che noi presentiamo, che è stata curata dalla figlia Debbie, che è qui con noi stasera, e che nell'edizione inglese The Next Revolution è uscita un paio di anni fa, e poi per il pubblico italiano il libro è stato tradotto e curato da Martino Seniga, che è qui con noi, con cui stasera parleremo, che è quello che ha curato poi l'intervista che avete appena visto. È un libro ovviamente fatto di una serie di saggi che soprattutto riguardano l'ultimo periodo di vita di Bucin, diciamo, quello anche del suo disincanto rispetto a certe ideologie del Novecento, rispetto anche all'anarchismo come lo conosciamo noi, e su cui a volte lui è stato anche conflittuale, no? Accusava gli anarchici di essere fossilizzati nei propri ideali, di non riuscire a concretizzare, diciamo, i propri pensieri, i propri progetti teorici. Su questo si è scontrato molto. Per cui Bucin ha elaborato questa serie di saggi, che poi sono stati raccolti. Non sono un testo pensato, un unicum, però ci danno delle neate prospettive, soprattutto per quanto riguarda, per noi occidentali, la crisi che attraversate e attraversa il complesso, diciamo, di quelle aggregazioni politiche che si sono sempre collocate a sinistra, no? Negli ultimi 30 anni abbiamo assistito a una crisi perpetua della sinistra, incapace di immaginare il futuro. Cioè, una delle cose che sottolinea Bucin è proprio questa, la incapacità di immaginazione. Cioè, quella che era stata la forza della sinistra nell'Ottocento di sognare l'utopia e immaginare una trasformazione radicale della società, no? Non solo dal punto di vista etico, ma soprattutto dal punto di vista economico e politico, lui dice, giustamente, Bucin, la sinistra nella seconda parte del Novecento ha perso questa capacità propositiva, questa capacità di fare società, di legare gli individui in base ai propri bisogni, ma in una pratica che li ponesse già qui ed ora nel momento della trasformazione. Ecco, questo secondo me è l'eredità principale di Bucin, che ci lascia e che ci ha lasciato a noi, diciamo, donne e uomini del XXI secolo, quello di poter reinventare il nostro futuro e non farci più soffocare dal tetro presente dell'attuale forma di dominio. Ora io lascio la parola prima a Martino, che dici, o preferisci? Così Martino ci può anche spiegare meglio nei dettagli quella che è poi l'eredità di Bucin che si è trasferita e perché anche in Turchia, nel Rojava, il pensiero di Bucin è diventato, tra virgolette, di attualità e viene preso a riferimento per i movimenti che si ispirano a queste forme di ribellione sia contro Erdogan che contro Assad, no? E qual è stato il rapporto poi che Bucin ha avuto con le comunità curde? Per cui magari poi apriamo anche un dibattito, perché di argomenti ce ne sono tanti. Io mi sono presentato prima, dicevo, sono della Biblioteca Serantini e il libro è della casa editrice della biblioteca. Non so se tutti voi la conoscete, è una struttura che è nata più di 40 anni fa, in ricordo di un anarchico giovane, un lavoratore, che è stato ammazzato dalla polizia durante una manifestazione antifascista, no? Nel maggio del 72. C'è una biblioteca in sua memoria che lo ricorda e in tutti questi anni ha prodotto varie attività, fra cui questo della casa editrice, di cui ne siamo ovviamente orgogliosi, ma soprattutto siamo orgogliosi perché la memoria di Franco non vada dimenticata e non vada persa e si mantenga sempre viva nella nostra società. Grazie. Sì, allora io credo che, ecco, appunto, siamo in un momento molto importante e in qualche modo un momento che può determinare dei cambiamenti per il futuro. E abbiamo tutti più o meno noi, insomma, io sono abbastanza anziano, insomma, però anche voi più giovani abbiamo tutti vissuto negli ultimi 60, 50, 40, 30 anni qui in Italia, in Europa, ecco, in un periodo di relativa pace, con un capitalismo che era stato messo sotto controllo da parte anche di alcuni movimenti di sinistra tradizionali, partiti socialisti, socialdemocratici, partiti comunisti che erano arrivati al potere, via dicendo, e in qualche modo questa situazione per alcuni decenni, che sono quelli anche della mia vita, ci hanno consentito di sopravvivere o vivere anche alcuni di noi in modo assolutamente soddisfacente, in una società che sembrava non avere un limite di sviluppo. Lo stesso Bookchin, in uno dei suoi libri più interessanti, racconta come ormai viviamo in una società in cui perfino l'anarchia sarebbe possibile. Perché? Perché c'è, anche grazie allo sviluppo tecnologico, allo sviluppo delle società democratiche, della scienza, c'è la possibilità di vivere in un mondo che non ha più particolari limiti tecnologici alle possibilità del benessere per tutti noi. In questo mondo però negli ultimi anni si stanno sviluppando dei nuovi percorsi. C'è sempre di più una minoranza veramente minima, infima dell'umanità. Noi siamo circa 8 miliardi di persone su questo pianeta. Ecco, circa 80 milioni di persone, cioè l'1%, detiene il 90% del benessere mondiale. E queste persone per molti anni sono stati appunto degli illuminati ricchi occidentali, americani, europei. Adesso non più. Adesso sono gli emiri del Qatar, che guarda caso controllano anche parte delle grandi società di informazione in Italia. E allora del Rojava o di quello che sta succedendo ad Afrin non si parla. Sono i sauditi, sono i russi, sono i cinesi, sono personaggi che non hanno una cultura democratica, non hanno una cultura progressista, e stanno lentamente prendendo il controllo di una macchina impazzita, la macchina del capitalismo mondiale, che sta portando all'autodistruzione il sistema ecologico globale, ma anche il nostro pianeta. E quello che sta succedendo in posti appunto come la Siria, il Rojava, è proprio l'esemplificazione di come tutta una serie di autoregolamentazioni, bilanciamenti caratteristici dei sistemi democratici, che per negli ultimi appunto 50-60 anni ci hanno consentito di mantenere almeno in Occidente un livello minimo di rispetto dei diritti umani e rispetto del valore fondamentale, diciamo, dell'esistenza umana, si sta andando perdendo. Definire con un'operazione pubblicitaria degna di un venditore di lavatrici, aspirapolveri, una tentativo di genocidio e di pulizia etnica, come sta avvenendo ad Afrin, definirlo operazione Ramoscello d'Ulivo, fa parte di questo modo di affrontare la realtà attuale di una parte, anzi una parte importante, di chi controlla le leve del potere nel nostro mondo attuale. E rispetto a questa situazione che si sta sempre più definendo, un po' come si stava definendo negli anni 30, a iniziare dalla guerra civile spagnola, purtroppo dal riuscito intervento di Franco, aiutato dai fascisti italiani, da Mussolini e da Hitler, contro gli anarchici, i repubblicani, anche gli indipendentisti catalani spagnoli durante la guerra civile in Spagna, riuscito perché ancora una volta, ancora in quegli anni, i paesi democratici di allora, la Francia, la stessa Gran Bretagna, rimasero a guardare, non fecero di fatto molto per aiutare i combattenti spagnoli, che comunque stavano sperimentando un nuovo sistema di relazioni politiche, sociali ed economiche dopo appunto la rivoluzione di Barcellona e la instaurazione della Repubblica spagnola nel 1936. Ecco, sono stati sconfitti. La loro sconfitta ha significato poi un percorso che ha portato, con una serie di passaggi, fino alla Seconda Guerra Mondiale e ai disastri, fino all'Olocausto, insomma, ai disastri che tutti noi abbiamo conosciuto attraverso i filmati e attraverso la storia, e che non possiamo dimenticare. Perciò in questo momento credo che sia importante capire che non solo bisogna resistere, ma bisogna avere un progetto per resistere. Ora, se c'è qualcosa di veramente, credo, importante nell'opera di Bookchin, ci sono molte cose, è stato uno dei primi teorici dell'ecologismo, cioè, ha fatto tantissime cose Murray Bookchin, però credo che abbia anche, specialmente negli ultimi anni della sua vita, cercato di proporre un progetto fattibile per la sinistra internazionale. Debbie ha raccolto in questo libro, nell'edizione inglese, una serie di testi con una, credo, poi mi potrai smentire, con una precisa impostazione. Erano dei testi che messi assieme potevano dare un progetto, potevano consentire a chi pensa che non è necessario che tutto vada sempre a finire male, come è successo, come purtroppo in alcuni casi continuerà a succedere, come è successo appunto nel 1936 in Spagna, dal 36 al 38, come è successo con il fatto che nessuna democrazia borghese ha effettivamente fermato lo sviluppo del fascismo e del nazismo fino ad arrivare ad una guerra mondiale, come è successo in Russia a quei compagni che avevano fatto la rivoluzione, che poi si sono trovati a dover finire invece la loro vita nei campi di concentramento, nei gulag, o a dover espatriare dalla Russia perché erano, come dire, non erano asserviti a un potere di partito che ha preso il potere in Russia. Ecco. Questi totalitarismi, queste situazioni criminali che hanno caratterizzato il Novecento, se non vogliamo che possano caratterizzare anche la seconda parte o questa futura parte di questo secolo, ecco, è necessario avere un progetto politico, avere, per chi crede nei valori fondanti dell'umanità, ma anche dell'illuminismo, e dal mio punto di vista della democrazia e del progresso umano, anche dell'eguaglianza, è necessario avere un progetto. Io credo che Murray Bookchin in questo libro ci dà alcune indicazioni. La cosa eccezionale è stato il fatto che un intero popolo, un popolo particolare, un popolo che è in lotta da 40-50 anni contro stati oppressori, perché è un popolo diviso tra Iraq, Turchia, Iran e Siria, il popolo curdo, ha deciso di, anche sotto l'indicazione politica del leader loro, di Abdullah Öcalan, che è incarcerato in questa isola, dove è l'unico incarcerato all'interno dell'isola di Imrali, nel Mar della Marmora. Si crede almeno che sia incarcerato, perché ormai sono 3 anni che nessuno riesce più a comunicare con lui, però ecco, Öcalan, leggendo alcuni testi di Bookchin, ha iniziato a ripensare quello che prima era un progetto indipendentista, in qualche modo nazionale, di indipendenza del popolo curdo, a ripensarlo in termini libertari, di autonomia, di confederalismo democratico, perciò un livello locale in cui con le assemblee popolari, con la democrazia diretta, si gestisce la vita, i rapporti che sono ad un livello di base della comunità, le necessità, diciamo, principali di base, e si cerca anche di organizzare a livello economico delle comuni o delle cooperative per dare lavoro alle popolazioni, e poi questa organizzazione di base legata alla democrazia diretta ad un livello più alto può organizzarsi con una confederazione, con, in questo senso le teorie di Bookchin si divergono un po' da quella che è la tradizione anarchica, no? Anche con la delega, perché no? Cioè, perché non utilizzare tutti gli strumenti che ci vengono dati a disposizione? Se noi possiamo gestire la democrazia diretta in un ambito come questo, se vogliamo invece in qualche modo coordinare la democrazia diretta su più posti, su più città, su più villaggi all'interno di un territorio o in un cantone come il cantone di Afrin o il cantone di Kobani o il cantone di Jazira, ecco che serve anche un livello di delega. Una delega a dei delegati, in questo caso un uomo o una donna, sempre ovviamente revocabile, però anche qui si possono studiare delle forme di non mi piace la parola controllo, però di fatto diciamo di presenza e attenzione popolare, se non vogliamo chiamarlo controllo popolare, sul modo in cui i delegati operano per coordinare ad un livello più alto, più globale, quella che invece è una politica che di base viene sviluppata a livello locale. Sembra fantascienza, ma ha funzionato fino a che non sono arrivati i carri armati e i caccia militari a massacrare le popolazioni di Afrin. Continua a funzionare a Jazira, a Kobani, e speriamo che riescano a resistere. Grazie. Salve e grazie a tutti per venire stasera e tanti scusi perché non parlo tanto italiano, quindi non voglio rovinare la lingua, quindi parlo solo un po', però per fortuna Franco e anche Martino hanno detto tante cose del mio padre. Il mio padre era molto preoccupato con la domanda come possiamo andare avanti. Ora, dopo 50 anni dove lui ha studiato e anche era anche un attivista, e lui ha visto che la sinistra era sempre un po' bloccata, anche negli anni 1930, però anche negli anni 1960-70, e lui per tanti anni lui ha scritto la teoria contro la gerarchia e dominazione, come ha parlato Dilar Dirik. Questa è una cosa molto importante per i curdi, però anche il mio padre ha detto non possiamo parlare sempre della economia, dobbiamo anche combattere questo tipo di gerarchia, dominazione per una libertà vera. Però negli 20 anni prima lui è morto, era più preoccupato con come possiamo andare da qui a là, come possiamo creare una società veramente con la libertà. E quindi ha detto che lui ha visto che c'era sempre un parte della sinistra come Žižek, Slavoj Žižek, che dicono sempre dobbiamo prendere la potere centrale dello Stato. E poi c'è anche gli anarchici che dicono no, la potere, non possiamo prendere la potere, dobbiamo abitare fuori lo Stato. E lui ha detto dobbiamo infatti cercare per una via terza, una terza via, e dobbiamo prendere le potere per i cittadini. E per lui questi tipo assemblee cittadini sono un modo dove possiamo prendere potere sempre, non so, decentralized, non in modo non gerarchico. Però per fare, Martino ha spiegato tanto, l'unica cosa che io voglio dire ancora è per fare questo tipo modo, organizzazione, dobbiamo anche fare una trasformazione di noi, dobbiamo essere nuove persone, non solo contribuente, una politica dove siamo contribuente, noi paghiamo le tasse e poi andiamo a fare un voto. Invece dobbiamo essere fare una politica prefigurativa, possiamo dire prefigurative, come in grado dove viviamo la nostra politica. E quindi questo modo, assemblee popolari, non sono solo un modo per organizzarci, invece è un modo anche per fare un autogestito della nostra vita, per reclamare nostra umanità insieme, in gruppi, piccoli gruppi, e poi i nostri vicini. E credo che ora, come ha detto Dilardire, questa è la cosa più importante, è un metodo più efficace. E spero che noi possiamo lavorare insieme in un modo internazionale, però anche in modo molto locale, come loro ci sono posti, come ha detto Martino, per esempio in Barcellona in Comú, dove loro provano, non è perfetto, non è una politica veramente radicale, però è un passo in questa direzione. E poi ci sono, per esempio, in Argentina, dove loro fanno la recuperazione delle fabbriche, sì. E anche negli Stati Uniti, in Jackson, Mississippi, loro fanno tanti cooperativi e inizia questo tipo di politica. E per me questo libro è importante perché questi saggi hanno analizzato anche problemi con il marxismo, problemi con gli anarchisti. ha idee concrete per come possiamo andare avanti. Grazie. Tanti, tanti scusi davvero. Grazie Debbie, grazie Martino. E allora, di argomenti per discuterne ce ne sono tanti, perché non è semplicemente come immaginare il futuro, ma come oggi, ora, subito poter diciamo avviare una pratica altra, diciamo, in qualche maniera, rispetto ai modelli che ci vengono imposti. Quando Debbie parlava della necessità di una trasformazione che deve anche coinvolgere se stessi, è verissimo, perché noi non possiamo essere portatori di messaggi di un cambiamento senza che questo cambiamento non venga interiorizzato in noi stessi, no? Questo vale nei rapporti personali, vale nei rapporti economici, vale nei rapporti politici. Ma questo, se volete, è una cosa che la storia stessa del socialismo e del movimento libertario ha sempre rivendicato, anche se ovviamente poi non sempre è riuscito a praticarle, no? Nella nostra storia italiana noi abbiamo visto vari tentativi, vari esempi di questo, diciamo, questa prassi di liberazione. Per cui il problema di come avviare un periodo di transizione da questa società a un'altra società è un problema da una parte di resistenza e di autodifesa rispetto alla violenza del dominio, e dall'altra parte la necessità di distruggere le cause di questo sfruttamento, che sono, ripeto, non solo macroeconomiche, non solo macropolitiche, ma spesso sono anche culturali e sociali, che penetrano all'interno dell'organizzazione familiare, per esempio. Per cui temi di discussione ce ne sono tanti, e Bucin su questo è molto vivo, molto frizzante da questo punto di vista, dà uno stimolo giusto, una scossa necessaria per riflettere, perché come dicevo all'inizio, ma come in parte ha detto anche Martino nel suo intervento, noi non siamo, non abbiamo un mondo aperto e diciamo perfettibile all'infinito. Il nostro mondo è un sistema chiuso, è un sistema chiuso che rischia l'autodistruzione, e noi ne abbiamo davanti tanti segnali, no? Non è inutile che le ripeta tutti, ma ne abbiamo tanti, e a partire dalla nostra Italia, dal nostro paese, che è in una deriva incredibile, non solo dal punto di vista economico, sociale, ma dal punto di vista politico sappiamo dove stiamo andando. Non nascondo le mie preoccupazioni di fronte al fatto che noi da oltre 20 anni assistiamo a una distruzione sistematica della cultura politica, soprattutto della cultura politica di sinistra, per l'affermazione di valori che sono, anche se non storicamente direttamente legati a quelle che noi cataloghiamo come fascismo o nazismo, ma sono valori intrinsecamente fascisti e neonazisti, che si stanno affermando non solo in Italia ma in Europa. Per cui la necessità di una resistenza implica anche la necessità di pensare come superare questo stato di cose, e di come poter immaginare una società liberata. Per cui, diciamo, io lascio la parola a voi, e sono ben, diciamo, ben accetti interventi, domande, tutto quello che, e critiche anche, soprattutto. Una così curiosità era su come lui intende, diciamo, il coordinamento per l'assemblea, cioè se in qualche modo fa riferimento a un tipo di istituzione che possa, che coordini eventualmente una decisione di tanto passo, o se invece si tratta appunto soltanto di un momento diciamo esecutivo fra virgolette, cioè che riceve un eventuale mandato dall'assemblea popolare e si limita, diciamo, a spiegarlo come gli viene trasmesso, ed eventualmente poi può essere appunto anche in qualsiasi momento revocato dall'assemblea di base. In questo senso mi interessava anche capire se secondo Bucin ci può essere qualche tipo di differenza fra democrazia e anarchia, cioè se il concetto di democrazia, per quanto ovviamente assembleare principale, non rimane in qualche modo sempre un'idea di potere coercitivo per quanto dal basso, per magari poi, ma e poi magari Debbie risponderà più nei dettagli sul pensiero di Murray Bookchin. Io posso rifarmi a quella che è l'esperienza appunto del Rojava, e le assemblee di comune riguardano strutture che hanno da 100 a 300 famiglie normalmente, ed è un primo livello. Le assemblee di comune eleggono un rappresentante, un uomo e una donna, alle assemblee di quartiere, ai consigli di quartiere più correttamente. I consigli di quartiere raggruppano, ovviamente stiamo parlando di qualcosa molto in evoluzione, però insomma sto cercando di sintetizzare e di semplificare. Le assemblee di quartiere possono raggruppare una decina di quartieri in una grande città o una decina di villaggi, ecco, tanto per intenderci, che a loro volta eleggono i rappresentanti al consiglio, diciamo così, provinciale o del cantone o della provincia, a seconda della grandezza un po' anche territoriale della zona. E c'è un ultimo livello, che è il livello appunto del consiglio di tutto il Rojava, che però di fatto non ha quasi mai funzionato, perché la divisione tra i tre cantoni è sempre esistita. Afrin è rimasto sempre separato. Difatti Afrin, il cantone di Afrin, aveva un suo, diciamo, Tevdem, che è una sorta di governo, cioè il consiglio poi di cantone elegge un certo numero di suoi rappresentanti che si occupano di temi che possono essere in qualche modo simili a un ministero, cioè c'è chi si occupa delle infrastrutture, chi si occupa dell'economia, chi si occupa degli aspetti militari, chi si occupa dell'istruzione, dell'organizzazione, delle accademie, insomma tutti i vari problemi che riguardano la società civile. Poi se volete ce l'ho degli appunti, posso anche leggervi, insomma, con più precisione su come è stato organizzato appunto all'interno del Rojava e come in parte si stava organizzando anche nello stesso Kurdistan turco, perché in effetti questi anni in cui all'inizio, diciamo dal 2006 più o meno al 2015, c'è stata una sorta di trattativa tra Öcalan nella sua cella nel carcere di Imrali, una serie di delegati dei movimenti curdi e dei vari partiti curdi, e in particolare del partito curdo, che è riuscito nel 2015 a portare 80 parlamentari. Non era solo curdo, era anche un partito laico socialista di sinistra turco, che ha portato 80 parlamentari nel Parlamento nelle elezioni del luglio del 2015, che poi sono state ripetute nel novembre del 2015, ne è riuscito a portarne ancora una settantina. Ecco, queste organizzazioni così erano riuscite effettivamente a sviluppare in tutto il Kurdistan turco, che è la parte più importante del Kurdistan. Stiamo parlando di una zona dove vivono i due terzi di tutti i curdi, che poi vivono nel resto del Kurdistan, cioè in Siria, in Iraq e in Iran. Ecco, era riuscito a organizzare un certo livello appunto di organizzazione di democrazia diretta dal basso anche all'interno di uno Stato non solo capitalista tradizionale, ma anche molto oppressivo. Quello che mi ha molto colpito, andando proprio lì nel Bakur, è stato che era il primo posto dove da tanti anni sentivo la gente comune parlarmi tranquillamente di cambiare la società capitalista, di poter fare a meno del capitalismo come strumento di gestione dell'economia, ma anche della società e anche purtroppo della nostra psicologia, che è un po' il grosso problema che abbiamo in questo momento con il capitalismo, è uno dei tanti grossi problemi a cui ci sta portando il capitalismo. L'altra cosa che ho potuto vedere di persona, mi aveva colpito moltissimo, era per esempio, io avevo una giornalista curda con cui lavoravo, che mi faceva le traduzioni, andavamo in giro, parlavamo con la gente, seguivamo tutta una serie di situazioni che si stavano verificando nel 2015 nel 2016 nel Kurdistan. Ecco, lei apparteneva a un'agenzia di stampa di sole donne, Jin Haber, kurda, e la mia domanda, ma chi è che fa il direttore, quando sono andato a visitare mi ha presentato le altre signore, ragazze con cui lavorava, dice no, non abbiamo un direttore. Dico, ma come venite pagate? Noi veniamo pagate in base alle nostre necessità, non in base al ruolo che noi abbiamo. E la stessa cosa nel comune di Diyarbakir, che è una città di 2 milioni di abitanti. Tutti i funzionari del comune erano pagati in base alle loro necessità, dal neturbino all'assistente mio amico del sindaco per l'ufficio stampa e per la comunicazione. Una cosa, per Bookchin una differenza tra, per esempio, l'anarchismo tradizionale e municipalismo è che dobbiamo diventare strutture, veramente proprio strutture, dove facciamo non solo gruppi come cooperativi, però dove lavoriamo nella comunità, nella città, nel comune, di non so, issues, sì, affrontare argomenti, affrontare temi però che affrontare la comunità, e però poi dobbiamo anche costruire un tipo di organizzazione dove facciamo, per esempio, scriviamo anche un piano, che cosa pensiamo e che cosa, le cose che sono importanti, per esempio un'economia morale e un ambiente che non è come il nostro, l'ambiente, le cose importanti, e poi ci parliamo con i nostri vicini, e poi iniziamo anche una campagna per andare nella municipalità, come candidare, però sempre per candidare si deve essere trasparente, si deve essere responsabile del gruppo, e non più si può candidare solo per la municipalità, perché ci vuole prendere il potere dello Stato più giù, e quindi no, alla municipalità. Quindi ci sono, è un progetto, e dove si deve andare lentamente nella politica. Però lui dice la politica non è, noi pensiamo o politica corrotta come Renzi eccetera. Lui dice la politica questo non è la politica. La politica dobbiamo pensare come la politica come in antica, la Grecia antica, dove tutti hanno potere, tutti parlano, tutti fanno una politica. Quindi non dobbiamo avere paura per la politica. Dobbiamo fare infatti questi tipo istituzioni insieme. C'è qualche altra domanda o interventi? Beh, in qualche maniera la riflessione che fa Debbie è quella di immaginare strumenti sociali sul territorio che oltre a favorire la partecipazione dei cittadini creano quel meccanismo di cui si sente sempre meno la necessità dell'autorità per autogovernarci. Cioè, questo è un processo importante sul piano culturale che deve prendere dentro noi stessi, ma che deve essere poi socializzato. Il problema non è semplicemente pensare di portare, tra virgolette, il verbo della liberazione, ma fare in modo che il meccanismo della liberazione sorga attraverso una prassi che metta tutti sullo stesso piano, diciamo. Cioè, in qualche maniera, rifuggire dalla gerarchia, allontanarla da noi come concetto, no? Dal punto di vista proprio autoritario, e sostituirci a questo una prassi basata sul solidarismo, sull'egualitarismo, sulla orizzontalità dell'organizzazione, non sul verticismo, eccetera. Quando anche c'è necessità tecnica di dover, tra virgolette, delegare, ma questa è anche una prassi che si era consolidata già nella storia del movimento operaio, questa delega è sempre una delega a tempo e removibile, mai a tempo indeterminato, mai non definita sul piano delle responsabilità. In ogni momento l'assemblea ha il potere di revocare la delega. Questa prassi, che a volte viene anche richiamata da qualche politico oggi in voga, no? Ma che in realtà non viene praticata, no? È una prassi che si deve diffondere nella società. Quando parlava prima Martino dell'esperienza dei villaggi, dei quartieri, ecco, non dobbiamo immaginare, tra virgolette, delle assemblee di rappresentanti di partiti politici. Poi ci sono anche i gruppi politici che agiscono nella società curda come in tutta l'area, no? Ma dobbiamo pensare a delle assemblee che rappresentano l'intera comunità, indipendentemente dalla presenza dei gruppi politici. La funzione del gruppo politico non è che non viene negata a priori, c'è, ma è importante che gli organismi sociali che nascono in queste realtà liberate siano impostati con questo processo democratico. Attenzione, noi non dobbiamo pensare alla parola democrazia come la conosciamo noi oggi in Italia, una democrazia rappresentativa, borghese. Diciamo che se vogliamo usare un aggettivo per caratterizzarla che potrebbe in qualche maniera essere più assonante, diciamo, a quello che è il nostro comune sentire, le nostre culture, potrebbe essere una democrazia sociale, una democrazia proletaria, cioè dal basso, fatta dai lavoratori per i lavoratori. Ecco, questo è il messaggio. Il tentativo che fa Buccina anche in questi scritti è quello di cercare di pensare concretamente come innestare questo processo di trasformazione. Se volete, nella storia del socialismo, sia della branca autoritaria che in quella anti-autoritaria, la riflessione sul periodo di transizione, cioè dal momento dell'abbattimento di una società borghese, capitalistica, al momento dell'instaurazione di una società liberata, socialista, libertaria, anarchica o comunista, come ognuno di noi la voglia chiamare, ha posto sempre il problema di come governare questo periodo di transizione, no? Noi l'abbiamo visto, siamo nel centenario della rivoluzione russa, noi sappiamo tutti che la rivoluzione russa, quando viene buttato giù lo zar e l'oligarchia che gli stava intorno, vengono istituiti i soviet, no? Il principio democratico in cui si instaura la rivoluzione nel febbraio del 17 ruota intorno all'organizzazione dei soviet, no? Dei soviet degli operai, dei contadini, dei cittadini, dei soldati, eccetera. È un modello all'epoca che viene e che gestisce la transizione. Poi lasciamo perdere tutti i discorsi su come è finita quell'esperienza. Però questo problema la sinistra se l'è sempre posto, non è che non se l'è posto, è che negli ultimi 30-40 anni, da una parte l'iperstatalizzazione della cultura di sinistra, che ha sempre pensato che bastava comunque o conquistare lo Stato democratico o conquistare diciamo il potere economico e poi da lì bastava legiferare per una migliore, diciamo, organizzazione della società e instaurare una via del socialismo, come diceva il migliore, la via del socialismo italiano, no? Poi in realtà sappiamo dove è finita, no? Ma il problema non è utilizzare le armi del potere borghese per poter instaurare una società che contraddice nettamente il potere borghese. Il problema è che bisogna abituare la gente a fare a meno del potere borghese. Cioè c'è la necessità comunque, Buccin lo dice, questo, ecco perché il titolo La prossima rivoluzione. Non è che Buccin dice non ci deve essere una rivoluzione, attenzione, è che il processo per arrivare alla rivoluzione deve essere impostato in maniera diversa. Non è una semplice presa del palazzo d'inverno, non è semplicemente un voto di un'elezione politica generale che ci fa accedere al paradiso del socialismo realizzato, tutt'altro. Ma ora, qui, come voi fate, come voi, cioè questa occupazione, questo luogo, no? È già un luogo liberato in qualche maniera, no? Avete già instaurato una prassi. Questo deve diventare ovviamente un costume che si deve diffondere, no? Dobbiamo fare a meno dei nostri padri tutori, no? E di questa abitudine a dover pensare che non si può vivere senza autorità. Ecco, questo è il messaggio, secondo me, che Buccin dà e che ovviamente non è la perfezione, attenzione, ci sono contraddizioni, evidente, come ci sono contraddizioni in tutte le rivoluzioni, compresa quella del Rojava, compresa quella della lotta dei curdi, perché ovviamente in ogni momento di transizione le contraddizioni esplodono nel momento in cui gli individui rappresentano sempre comunque un qualcosa di ben concreto nella società, per cui ruoli, responsabilità, poteri, gerarchie. Però è necessario non perdere la fiducia nella rivoluzione, perché non abbiamo altra alternativa. non è una domanda semplice. Ovviamente il quadro storico è come quando si fanno il parallelo. Prima abbiamo richiamato la rivoluzione, la rivoluzione spagnola, no? Il quadro geopolitico internazionale dell'epoca è ovviamente molto diverso rispetto a quello che stanno vivendo i curdi, anche se possono esserci dei parallelismi o delle similitudini per certi aspetti. Per quanto riguarda l'esperienza zapatista, sicuramente l'esperienza zapatista è stata un'esperienza, chiamiamola così, di democrazia diretta in divenire importante, no? Tant'è che negli anni 90, voi lo sapete meglio di me, da quando ci fu, diciamo, la prima insorgenza, nel Chiapas, diciamo, si è sviluppato un movimento che ancora tutt'oggi, pur con le contraddizioni di questo mondo, continua a esistere e a resistere. Ovviamente quello che manca, forse prima Debbie l'ha richiamato involontariamente quando parlava della necessità del diffondere sul piano internazionale, in qualche maniera rispondere da un punto di vista locale su aspetti di politica internazionale, perché anche lo zapatismo e l'esperienza del Chiapas ha cercato di porre il problema, quando faceva organizzato gli incontri internazionali, porre il problema di un processo di trasformazione della nostra società su un piano internazionale, ha cercato di collegare. Ahimè, noi siamo in una situazione di profonda arretratezza, noi non dobbiamo scordarci che noi veniamo da un lunghissimo periodo di sconfitte che ha determinato un forte arretramento dei movimenti di emancipazione. Questo vale sia per l'America, l'America centrale e l'America del Sud, ma vale anche per l'Europa, come vale per il Medio Oriente. Ci sono dei paralleli nel senso che tutte le volte che si tocca il problema dell'auto-organizzazione, si tocca il tasto vivo della questione, no? Certo, però diciamo che sul piano ora proprio organico non c'è un rapporto diretto, no? Però sicuramente sono tutte esperienze che danno un segno ben preciso di dove andare, no? Sul piano appunto della necessità non solo della resistenza, ma attraverso la resistenza di formare quei nuclei, diciamo, di società in divenire che siano capaci di avviare la trasformazione. Ora, noi sappiamo benissimo come in Chiapas si sono evolute i rapporti fra le comunità locali indigene e il governo centrale, quali sono state le tensioni, però si può dire che dopo 20 anni di quell'esperienza, ancora in Messico, l'opposizione in Chiapas è un'opposizione significativa. Quello che manca sul piano internazionale, mentre noi abbiamo assistito a un processo di ricomposizione, chiamiamolo così, quella che una volta si sarebbe detto ricomposizione del capitale, dalle forme che avevamo conosciuto nel Novecento, tipicamente imperialiste, in quelle diciamo della nuova globalizzazione che ha caratterizzato l'epoca fra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, quella che è stata questa ricomposizione sul piano delle mutamenti, della trasformazione del sistema imperialistico e finanziario, ovviamente sul piano della resistenza non ha visto un contraltare sul piano internazionale di capacità di antagonismo, chiamiamolo così, e di forza dirompente, ma ci siamo limitati a situazioni locali. Ecco perché l'appello che faceva prima quella scrittrice giornalista curda sul fatto di non lasciare soli i curdi che oggi combattono in Rojava è un appello importante, perché non è semplicemente una questione di solidarietà. Dobbiamo capire che il nemico che lì combattono, in Italia ce l'abbiamo in casa nostra e dobbiamo combatterlo con la stessa forza. La lezione che ci viene da Rojava è proprio questa, cioè che solo attraverso la solidarietà internazionale, solo attraverso l'allargamento di una lotta a tutto il sistema mondiale è possibile fare in modo di difendere queste realtà che hanno alzato la bandiera della rivolta. E la necessità di una trasformazione radicale di questa società è l'unica risposta che possiamo dare al modello che ci viene imposto. Io condivido lo spirito che in qualche maniera Debbie ha messo per scrivere nel senso che la sinistra libertaria, autoritaria, nei fatti, nel passato, non è riuscita a darsi dei programmi che arrivassero a concretizzare realmente un mondo del domani. E quindi tutti gli sforzi che vanno in questa direzione, cercano di risolvere questo enorme problema, sono ben accetti, sperando anche che fossero poi che siano risolutivi. Ma il problema non è tanto una trasmissione di come si formano le decisioni, perché è chiaro che quanto hai detto te, Martino, è chiaro, ci sono dei passaggi per una questione di allargamento degli interessi per formare la decisione, e quindi ci saranno anche i delegati. Ma il problema qual è? È che qualsiasi delega che viene affidata ad uno dei partecipanti ad un'assemblea che raccoglie la fiducia da parte di tutti i componenti dell'assemblea, questa delega non è mai una delega a decidere, è una delega a continuare una discussione per arrivare alla formazione di una decisione. Che tipo di decisione? Perché se questa decisione si ritiene che debba essere poi l'osservanza di tutti quanti, è già lì è un problema, perché più ti allontani dalla base che ha discusso prioritariamente di questo fatto, e più facile è che in qualche maniera la decisione presa si allontani anche lei dalle esigenze. Per cui il compito è veramente difficile. Però io torno ad un punto fondamentale. L'occhiello, diciamo, di questo libro, lo riporto per quanto ho letto nella mail d'invito che indicava questa occasione di stasera, era dalle assemblee popolari alla democrazia diretta. Ecco, il nodo è questo. Le assemblee popolari devono essere veramente delle assemblee autogestite, cosa che invece molte volte non è, perché non c'è una pratica di applicazione dell'autogestione in ogni momento. Non c'è nelle assemblee, non c'è nelle cooperative, che dicono ma non sono assolutamente autogestite. Non c'è forse nemmeno nei comitati che sorgono contro qualche cosa o per qualche cos'altro, perché lì si creano sempre delle figure di riferimento e poi in qualche maniera, insomma, cominciano subito a debordare rispetto a questa linea. Apro una piccola parentesi di esempio. Guardate che cosa è successo dell'autogestione in Venezuela. Eppure continuano a dirlo. Così come la rivoluzione sovietica si è chiamata sovietica fino a 20 anni fa. Ditemi voi se potevano loro minimamente giustificare, cioè noi siamo ancora l'Unione Sovietica. No, voi gli soviet l'avete uccisi tutti quanti e ora non c'è più questa situazione. Allora vedete, io riporterei il discorso non per arrivare alla democrazia diretta, ma il problema delle assemblee popolari che dovrebbero essere proprio una palestra che ti insegna a come si formano le decisioni. Apro un'altra piccola parentesi. In un'assemblea popolare 100 anni fa, 70 anni fa, ai tempi di Malatesta, si diceva che veniva dato un mandato imperativo. C'avevi una bocca o un fogliolino scritto che ti diceva di dire. Questo te l'avevano detto, perché non ci si credeva che questo potesse andare lì a modificare le decisioni nell'interesse di tutti. E forse questo è ancora valido. Per cui io starei attento. Se in questo discorso da A c'è un discorso di transizione, perché bisogna tendere ad arrivare alla democrazia diretta, io vi dico la verità, sono scetticissimo su questo. Dico che noi bisogna portare le forme dell'autogestione a tutti i livelli territoriali che vogliamo e che ci impone il fatto di essere 8 miliardi, e quindi è chiaro, ma sempre con questo spirito. Non c'è mai una struttura decisionale alla fine del tutto. Voi avete detto il movimento del PKK con Ocalan, che ha fatto secondo me un grossissimo e importantissimo cambiamento, da un partito marxista-leninista è arrivato a essere in qualche maniera un'organizzazione libertaria che vuol decidere nell'interesse di tutti e cerca di percorrere questa strada. Però poi si va a vedere che i curdi turchi si fanno un partito e mandano 80 persone al Parlamento di Ankara. E questa probabilmente è un po' la storia dei due o quattro anarchici che in Barcellona decisero che forse avevano un ruolo là dentro. E questo, vedete, che si ripropone subito. Probabilmente il ruolo nelle forme in cui la democrazia diretta o la democrazia occidentale arriva a prendere le decisioni per ora non sono assolutamente quelle giuste. Per cui sarei più per continuare a imparare a autogestirsi a qualsiasi livello, e dopo potremo scrivere fino a chissà che cosa, ma ora la democrazia diretta non mi convince. Si può, poi ti faccio. No, assolutamente sì, anche se vorrei solo aggiungere, no, grazie per l'intervento, è stato veramente molto importante e interessante, e quando ti sentivo parlare poi rivedevo alcune cose che sono state scritte da Murray Bookchin proprio in questo libro. Sicuramente il ruolo dell'Assemblea Popolare è quello centrale. A cosa questo possa tendere? Adesso questa ovviamente è una sintesi di un titolo, no? Verso la democrazia diretta, che è già qualcosa di molto più difficile da spiegare rispetto al concetto più chiaro di assemblea popolare. Diciamo che rispetto alla tradizione anarchica, sicuramente il pensiero di Murray Bookchin si differenzia in due aspetti centrali. Uno è quello appunto della delega, che in qualche modo ritiene che ci sono livelli in cui è necessaria una delega, sempre con mandato imperativo, con il controllo dell'assemblea popolare. L'altro aspetto è quello della decisione a maggioranza. Cioè Bookchin in questo senso è chiaro, cioè all'interno dell'assemblea popolare la decisione deve essere presa in certe situazioni a maggioranza. La minoranza ha il dovere e diritto di accettare la decisione della maggioranza e poi di continuare a lottare per le proprie idee. Ma nel momento in cui, specialmente in una situazione di guerra come quella in cui si trovano per esempio adesso ad Afrin, la maggioranza prende una decisione, bisogna attenersi a quella che è la decisione della maggioranza. Questi sono i due punti in cui sicuramente il pensiero di Murray si discosta da quella che è la tradizione anarchica. In linea di massima io direi che è importante, se vogliamo effettivamente cambiare qualcosa, sono importanti innanzitutto avere un progetto, che poi può essere sempre modificato e migliorato, e poi tanto lavoro, perché senza un progetto e tanto lavoro, iniziando dal basso, non si va da nessuna parte. Per cui questo è un po' quello che si può pensare come primo livello di aggregazione, di lavoro in ambito locale. Poi possono esserci degli sviluppi imprevedibili, ad esempio il problema del continuo a usare questa parola che non mi piace, del controllo popolare sul delegato, paradossalmente può essere oggi come oggi più semplificato proprio dai mezzi del web, di internet, i nuovi mezzi informatici. che possono consentire paradossalmente proprio quello. Allora, da una parte abbiamo un sistema globale che è sempre più un web capitalista in cui siamo tutti noi contemporaneamente merce e consumatori, no? Facebook ci vende ogni momento, quando noi entriamo in Facebook diventiamo la merce di Facebook oltre ad essere i consumatori di Facebook. Dall'altra parte gli stessi strumenti, che sono strumenti, come dire, del massimo livello di sfruttamento concepibile del nuovo capitalismo tecnologico ed economico, possono essere invece utilizzati in un modo democratico e popolare per cambiare le cose, magari anche per garantire una trasparenza nei processi politici quando passano di livello, si sviluppano dei livelli, diciamo, che vanno verso il globale, dal basso verso l'alto. Ci sono altri interventi? Una domanda puntuale volevo chiedere. Volevo chiedere se Bookchin e dove eventualmente individua in una società strutturata capitalista come quella nostra dei possibili embrioni da cui partire per innestare processi di assemblearismo popolare e quindi di municipalismo libertario. Cioè individua magari in questo saggio o da altre parti dei suoi scritti qualche possibile punto di partenza in questo approccio pratico che lui ha, questa visione così rivoluzionaria, fornendo strumenti, fornendo anche delle prassi e dei metodi. Diciamo che appunto la tematica della struttura mi sembra un po' quella principale, ma lo è comunque. Quindi la domanda appunto è come questa proposta di creare una rete fra tutte le realtà che più o meno esiste, cioè in un certo senso esistono anche se non ha una dimensione tale da, diciamo, come mettere l'idea è quella appunto, no, mettiamo in rete così da lì si riesce a guadagnare questa forza. Però appunto è il come che per cui per esempio appunto in Kurdistan in realtà sono stati fatti, no, dei ministeri, delle cose, in un primo momento era stata portata un certo punto di verticismo nel momento in cui si prendeva il controllo del territorio e si doveva costruire tutte le comuni e c'è la struttura di cui si parlava. E nello stesso tempo appunto una cosa che vedo molto importante anche che si vede nel Kurdistan è quello delle strutture, diciamo, parallele, quindi comunque tutte strutture sulle varie tematiche che lavorano indipendentemente, si relazionano, però che garantiscono il fatto che la voce, appunto, anche nel caso in cui si vada a votare a maggioranza, non arrivi cioè non esista una sola voce. E quindi sì, appunto, non so se c'era su questa tematica qua del momento in cui cioè come si può lavorare sul creare questa rete e costruire questi meccanismi senza appunto cadere in o costruire appunto o prendere appunto alcuni politici locali comunque idee, senza che questa cosa qua vada poi a rovinare tutto l'altro principio da cui si parla. Sì, certo, non è semplice. Ecco, sicuramente ragionare in termini anche appunto del ciberspazio, il mondo di internet come ulteriore strumento di organizzazione della comunicazione e della diffusione delle idee può essere un primo passo, ecco, questo certamente. Rispetto al problema appunto di quello che dice Bookchin, io credo che lui essenzialmente ragioni sull'organizzazione appunto a livello locale nei municipi e comunque di strutture locali che a un certo punto possono vivere in parallelo e convivere con lo Stato borghese capitalista fino a quando questo è possibile. E in questo senso anche banalmente l'organizzazione di comuni, di strutture di nuovo tipo a livello economico può essere un modo di iniziare a lavorare qui in Italia e in Europa, e da una parte, dall'altra parte a livello locale il lavoro nei municipi, nei quartieri, anche nelle strutture politiche di base, per cercare di affrontare però temi concreti, problemi concreti, e fare esattamente l'opposto di quello che ha fatto il Movimento 5 Stelle, cioè andare a occuparsi dei problemi reali della gente anche in un piccolo ambito di lavoro. Chi ha la possibilità di farlo lo deve fare. L'altro problema centrale credo sia quello appunto del tema che esponeva prima Debbie, che è centrale, quello della gerarchia. Dobbiamo effettivamente liberare innanzitutto noi stessi da una psicopatologia capitalista che è diffusa in tutta la nostra società, che è una psicopatologia dell'affermazione personale, dell'individualismo sfrenato, dell'incapacità di avvicinarci agli altri e di riconoscere i bisogni e le necessità degli altri. Tornando un po' a Rosa Luxemburg, riconoscere che la libertà è sempre quella degli altri, anche di sbagliare, di dire qualcosa di sbagliato, di accettarlo e di proporre le nostre idee, anche se non... Ecco, questa capacità di creare comunità, loro lo fanno perché sono una comunità, come dire, perseguitata da decenni in costante lotta. Ecco, forse dovremmo trovare questa capacità di creare comunità anche noi che viviamo in situazioni sicuramente più fortunate. Io però non un attimo, vi lascio. Sì. Allora. C'è solo una cosa che anche io volevo dire. Per Bookchin c'è anche una differenza tra la potere di fare una decisione e e di persone che fanno il lavoro della decisione, quindi le persone che fanno amministrazione. E lui dice sempre che quelle che, per esempio, un uomo che fa la acqua per la municipalità, lui non può decidere come, quanto acqua o l'elettricità, per esempio in Rojava, devono decidere quante ore al giorno possiamo usare l'elettricità. E c'è un signore, o forse una donna, che organizzarci come si fa l'elettricità, però loro queste persone non possono decidere, è sempre il comune che decide. Quindi non, ci sono tante persone che dicono però la società è troppo complicata, non possiamo fare questa decisione. Però io credo invece possiamo fare questa decisione, e poi qualcuno, un esperto, ha la capacità di fare le cose che la comunità ha detto vogliamo fare. Questo è un po'... E anche la cosa che volevo dire per Bookchin, ci sono tante cose che possiamo fare sull'internet, però lui dice anche sempre questo tipo di politica deve essere, posso dire, faccia a faccia. È importante, è anche studiare insieme un libro o qualcosa e poi scriviamo un programma complesso e facciamo, è un processo, però non è possibile così, insieme, in gruppi e poi con una confederazione insieme. Io provo a rispondere, come ti chiami? Simone, ecco, io sono Franco. Provo a rispondere, anche se ovviamente la mia risposta poi lasciamo a Martino rispondere quando ritorna. Proviamo a immaginare questo. Sicuramente Bookchin immagina che questo tipo di progetto deve partire dal qui ora, per cui in questo sistema capitalistico, e si debba raffrontare con questo sistema nei diversi paesi secondo i sistemi politici che ci sono. per cui diciamo ha degli aspetti, chiamiamolo così, se vorremmo usare una parola che magari noi tutti conosciamo, neoriformista. D'accordo? Però cerchiamo di distinguere un attimo da quella che è la proposta concreta che fa Bucin rispetto a quello che è l'idea generale poi della trasformazione. In fondo cosa dice Bucin? Dice che una comunità, per necessità di soddisfare i propri bisogni e per difendersi da eventuali aggressioni che possono essere anche di tipo ambientale, che possono essere di tipo di genere, che possono essere di tanti tipi, si auto-organizza e cerca di unire tutti i cittadini, attenzione, non in base a un principio di differenziazione, no? Ma tutti i cittadini devono partecipare a questo momento di auto-organizzazione e di autodifesa. In fondo è un po' come se noi dovessimo ritornare indietro nella nostra storia, nella storia del movimento operaio, è come quando gli operai all'inizio iniziano a organizzarsi nelle leghe operaie e poi si confederano in una camera del lavoro, no? E da lì poi nascono i sindacati, come poi li abbiamo conosciuti noi nel Novecento, ma all'inizio erano forme territoriali orizzontali che nascevano per unire non una determinata categoria o solamente una categoria magari associata sul piano politico, ideologico, ma tutti i lavoratori, indipendentemente da razza, religione, sesso o qualsiasi altra differenziazione. Questa forma di auto-organizzazione ovviamente nasce in un contesto dove chi domina è ancora il sistema capitalistico, per cui ne riflette tutti i difetti anche, perché noi ci portiamo dietro quella che è la nostra cultura, la nostra formazione, il nostro vivere, la necessità di dover portare a casa comunque un salario, no? Per cui questo ovviamente è un approccio. Però quello che lui dice è che questa forma di auto-organizzazione non si deve diffondere solo su un principio tecnico, ma deve inglobare un po' tutta la società. Cioè, come dire, essere presente in ogni luogo, in qualche maniera. E solo attraverso questa prassi che è possibile innescare quel meccanismo sulla necessità del cambiamento, cioè facendo vedere che è possibile anche organizzarsi in maniera differente, magari semplicemente per difendere un diritto, capito? Ma è lì che nasce la differenziazione rispetto al sistema che ci viene imposto, no? Quello della delega, quello della rappresentanza, quello del raccomandarsi al potere per avere un beneficio, no? In qualche maniera. È un progetto che mi affascina realmente e penso da un punto di vista politico su questo tema, no, dell'assemblea popolare, dell'organizzazione, rifletta comunque un problema che esiste sull'organizzazione della società, quale che essa sia. Cioè noi si dà un po' troppo per scontato che se domani si arriva il potere poi il giorno dopo siamo in grado di costruire una società in cui si dà parola a tutti, eccetera eccetera. Evidentemente non è così facile, quindi penso appunto la risposta sia sull'abituarsi a farlo per arrivare a, insomma, una cosa che noi purtroppo non siamo abituati, perché non siamo abituati a ragionare in termini di autogestione di assemblee popolari. La domanda che volevo fare io un po' più noiosa era dal punto di vista economico. Ora immagino comunque una situazione di guerra e quant'altro, ci siano dei limiti anche, però volevo chiedere come si stanno cercando o come hanno cercato di, o come Bucin proponeva di organizzarsi da un punto di vista economico, cioè nelle relazioni fra le varie comunità, se c'è una direzione o se ciascuna comunità si autodetermina, come sono gli scambi, insomma, ovviamente immagino in questo momento non sia la loro principale, però comunque si saranno dovuti organizzare anche da un punto di vista economico, di gestione delle risorse e quant'altro, un'infarinatura su come. Per Bucin rispondi tu? Un po' provo. Lui dice che dobbiamo diventare un'economica morale, è un'economica dove la municipalità decide che cose facciamo. Questo è difficile nella nostra società, non è facile, però lui ha un'idea che se possiamo votare, per esempio, per il consigliere nella municipalità. Piano piano loro possono anche rinforzare le assemblee anche, e loro, e poi nelle assemblee loro decidono come. Lui è ovviamente un socialista, lui non dice che possiamo fare questa società sotto capitalismo, però dobbiamo iniziare. E una cosa, non so, possiamo dibattere, lui dice sempre che la municipalità decide, non le proletaria, non è la classe, diciamo, la non classe, è il proletariato, sì, non è quelle che sono anche, sì, è così, come ho detto, piano piano speriamo che possiamo iniziare un'economia più, dico sempre, morale, più razionale. Questo è anche una cosa dell'educazione. Dobbiamo sempre parlare, leggere e fare un tipo studio delle, perché lui crede che sotto tutto questo caos del capitalismo noi siamo razionali, che la umanità vuole fare cose. Non siamo come loro dicono competitivo e così. Invece quando abbiamo, per esempio, io dico un esempio. Io sono stato in Italia, non ricordo, forse era 4 anni fa. C'era un flood. Un'inondazione. Un'inondazione dopo tanto, piovuto tanto. E ho visto, ero in Parma, che c'erano gruppi nella comunità, il governo era assente, c'erano gruppi che hanno fatto tutto, e anche in L'Aquila, per esempio. E quindi quando hanno l'opportunità, la gente vogliono ci aiutare. Sì, cooperare, grazie. E quindi non è impossibile, possiamo anche diventare un'economia anche razionale, più razionale. Sì, a livello, sì, quello appunto, tornando al titolo del libro di Bookchin, che non mi veniva in mente prima, è la post-scarcity anarchy, cioè l'anarchia della post-scarsità, che sarebbe oggi possibile. Ecco, da un punto di vista economico, tornando a Rojava, certo stiamo parlando di una realtà in una situazione di guerra, ma semplicemente non dovendo più, essere servi di un'economia centralizzata dallo Stato siriano, per cui venivano attuate determinate coltivazioni anche nel Rojava, dove c'erano delle attività appunto agricole, in funzione di quelle che erano le esigenze centralizzate di qualche ministero a Damasco, che diceva che lì andava coltivato quel tipo di cereale, non un altro. Ecco, anche semplicemente ricostruendo dal locale l'economia e coordinandola ad un livello globale, si possono, iniziare a risolvere alcune storture e alcune follie proprio paranoiche della società capitalista globale, che non è assolutamente la migliore delle possibili società, anzi sta velocemente diventando la peggiore, contrariamente alla democrazia, che dal mio punto di vista invece è tuttora il migliore di tutti i possibili metodi per gestire la politica, non ne vedo altri. Thank you. impressione che ho io è che qui non sia un'economia immersa nel tipo capitalismo come siamo noi, cioè da lì non c'è passato quelle zone lì, il boom economico, della società dei consumi, e quindi sia ancora un livello economico in cui si può attuare il tipo di discorso che cerca Puccini, cioè ci fa riferimento ai comuni medievali quando parla dell'ecologia sociale, e quindi a un livello di civilizzazione non avanzato come quello nostro in questo momento nella parte del nord del mondo, diciamo così. Quindi forse in quelle zone, ma anche parlando, prima si faceva l'esempio del Messico, di Chiapas, siamo in una situazione in cui non è passato questo scatto antropologico che è stato il boom economico, che ci ha resi molto più indipendenti da quello che poi è il sistema capitalistico. Cioè, che lì ci sia, né fra le mille difficoltà che ci sono, ma ci siano molti più spazi di autonomia rispetto a, a qui. Interessante. Sicuramente noi dobbiamo avere una maggiore capacità di immaginazione, cioè per cambiare le cose, proprio perché siamo abituati ad un tipo di società e di cultura economica con tutte le sue sovrastrutture che pensiamo sia l'unica possibile. Invece bisogna immaginare qualcosa di diverso. Là forse sì, in parte è più facile, ma in parte anche più difficile, certo, non è... Però assolutamente sì, continuo a dire, un progetto, e qui un progetto inizia a esserci, che poi deve essere ovviamente ulteriormente sviluppato, è tanto lavoro, perché anche se poi dopo non riusciremo a fare la rivoluzione, ma semplicemente a far funzionare meglio il nostro quartiere, qualcosa di buono avremo già fatto. Ci sono delle raffinerie in Rojava. Sì. Quello che dicevi te può essere affascinante da un punto di vista così teorico generale. Ho qualche dubbio sul piano pratico che lì non abbiano assistito a quello che è non solo l'effetto, ma quello che è diciamo il modello capitalistico attuale. Perché intanto lo conoscono dal fatto che tutti i giorni gli arrivano delle bombe in testa, per cui quella è la dichiarazione lampante del potere capitalistico. Ma secondo me la globalizzazione, che poi è un processo graduale che è avvenuto nella nostra società, ma che negli ultimi 20 anni ha avuto questa impennata, poi è un processo che viene da un lungo periodo di trasformazione della società capitalistica, è passata attraverso forme di imperialismo, no? Che abbiamo conosciuto da prima della prima guerra mondiale in poi, secondo me tranquillamente, diciamo, si è diffuso in ogni luogo. È che lì forse è successo quello che ha causato una guerra, cioè la distrutturazione dello stato di Assad, che ha portato a meno controllo del territorio e di conseguenza ha dato più autonomia alle comunità locali. Dall'altra parte, inizialmente anche la difficoltà da parte dello stato turco, perché aveva dei problemi interni, a poter essere più presente. Ora che Erdogan si è accorto della realtà del Rojava come di altre realtà e gli ha dichiarato guerra, è perché ora è nelle condizioni di fare la guerra dopo aver eliminato la propria opposizione interna. Magari 2 anni fa non lo era nelle stesse condizioni, ha dovuto concedere, tra virgolette, degli spazi in più. Il problema è che secondo me le forme del dominio capitalistico comunque lì le conoscono come le conosciamo noi qui in Italia, è che magari noi abbiamo una maggiore subalternità dal punto di vista culturale, perché le nostre condizioni sono oggettivamente migliori di benessere, nonostante tutto, rispetto a loro. Loro lo vedono la brutalità del dominio capitalistico, però secondo me quello che è l'insegnamento che arriva da queste popolazioni è che non hanno abbracciato il fanatismo religioso come altri, o come altre componenti di quelle società. Hanno abbracciato un'idea laica di trasformazione della società, e questo secondo me è il messaggio importante, no? Perché già il fatto della presenza delle donne non solo negli aspetti dell'organizzazione di resistenza militare, ma anche nella costruzione della vita sociale, e anche nella trasformazione culturale del proprio linguaggio. Secondo me questo è un sintomo importantissimo, che però nasce, ripeto, dal fatto che lì, in un stato di guerra, gli stati centrali di quella zona hanno perso il controllo sul territorio. L'auto-organizzazione è possibile quando i rapporti di forza ovviamente si invertono. Non è possibile sempre, non può avvenire tramite una concessione legale, diciamo. Anche noi che viviamo in una società opulenta, ricca, rispetto a quei paesi, eccetera, tutte le forme di autogestione non sono mai avvenute per un decreto di legge, no? Vedete bene, tutte le volte che una qualsiasi popolazione, un qualsiasi quartiere, cerca di difendere i propri diritti e lo fa in maniera autonoma e indipendente, con tutti i limiti poi, tra virgolette, delle pratiche, eccetera. Noi sappiamo benissimo che nelle lotte gli step, diciamo, di auto-organizzazione possono essere diversi, mutevoli e a volte non andare a buon fine. Però guardate quello che sta capitando da anni in Val di Susa, no? Dove comunque c'è stata una forma di resistenza e vedete bene che lo Stato, in questo caso lo Stato rappresentato non solo dal potere centrale ma anche dai poteri periferici, si è compattato nell'andare contro queste popolazioni, perché queste popolazioni che cosa andavano a inclinare, a mettere in discussione? Un progetto di sviluppo capitalistico centrale, importante per questo tipo di piano economico, no? Sappiamo benissimo i treni ad alta velocità, eccetera eccetera. E lì la forma di resistenza c'è stata, ovviamente, però ovviamente in una condizione di dover strappare metro per metro la libertà di poter decidere del nostro futuro. Qualche altra domanda? O qualche intervento? Senza bisogno di nominare, sappiamo che in questo momento, appunto, in Italia, quello di cui si è parlato, no? Questione imparare a gestire un'assemblea, cioè è quello che comunque si fa qua, cioè giorno per giorno, e che ci sono tante realtà che portano avanti questo lavoro, che non è così capillare come si vorrebbe, però comunque su cui si lavora. E appunto sulla tematica del sviluppare, utilizzare strutture esistenti per cambiare, cioè per, diciamo, decostruirle, in questo momento c'è un movimento abbastanza, no, su questa tematica, seppure ancora non ben chiara come posizione, e quindi cioè, è molto forte la questione del dove si pone il limite tra una struttura che viene, cioè che cerca di utilizzare appunto queste stesse strutture istituzionali per arrivare a questi obiettivi, ammesso che siano comunque questi gli obiettivi chiari, diciamo, però insomma, ponendolo nel caso, dove si pone il limite è uno degli elementi fondamentali, no? Dove l'autogestione non deve porre, cioè l'autogestione di tutte le realtà locali non deve entrare all'interno di quella che invece è l'organizzazione che va a cercare di utilizzare queste strutture per non andare a rifinire nelle dinamiche stesse della politica, in un certo senso istituzionale, che si vuole affrontare, no? Domanda complessa. Il problema io credo che sia sempre una questione di rapporti di forza, no? Cioè ogni prassi che si pone in maniera radicale e rivoluzionaria rispetto allo stato delle cose presenti può trovare diversi livelli di attuazione. È chiaro che in un momento di forte regresso, come siamo noi da anni, e forte debolezza, il fatto che, come dire, i movimenti spesso sono limitati a situazioni molto locali, molto settoriali, e di conseguenza le lotte assumono sempre più aspetti di resistenza che non di diciamo salto in avanti, cioè di guardare di capacità di essere progettuali. E questa è intanto una forma necessaria di autodifesa, però dimostra anche la debolezza della situazione in cui siamo. Cioè quello che si dice è che spesso alla sinistra, in generale sto parlando di tutte le sue componenti, negli ultimi anni, negli ultimi decenni, è mancata la capacità di immaginare il proprio futuro. E di conseguenza ai cittadini o comunque chi si organizza sia per difendere uno spazio sociale o per difendere un territorio, eccetera, in questo momento la forma di autodifesa è l'unica immediata e concreta per organizzarsi e per sopravvivere e per rispondere a un bisogno sentito, no? Impellente, no? Che è quello poi mancanza di spazi o la difesa di un territorio. Dall'altra parte manca un progetto complessivo sul piano politico. E noi abbiamo assistito alla disintegrazione della sinistra politica in tutti gli aspetti, sia riformisti che rivoluzionari. Veniamo da un periodo di sconfitte, bisogna reinventare un percorso progettuale. Buccin non è che ti dice io voglio fare una sinistra politica, voglio fare un partito politico. Lui va molto sul concreto, dice io voglio incominciare a fare, a trovare, dare delle soluzioni organizzative per difendere una serie di bisogni primari della popolazione. Da questi poi si parte per pensare a un progetto politico. Lui fa questo tipo. Per altri magari sarebbe più importante rielaborare un progetto politico complessivo di quello che è il ruolo di un movimento rivoluzionario in una società a capitalismo avanzato come quello di oggi. Il riuscire a coniugare istanze di base, realtà territoriali, con un progetto complessivo, questa è la grande scommessa del XXI secolo. Non abbiamo ancora inventato, diciamo, un nuovo progetto complessivo. Però quello che è importante è che queste forme di resistenza inizino a collegarsi, organizzarsi, a uscire dalla semplice logica della resistenza. A qualunque livello ci può essere anche il rapporto, tra virgolette, con le istituzioni locali, eccetera. Se questo dipende però dai rapporti di forza. Se uno c'ha i rapporti di forza per imporre un'occupazione a lungo termine, autogestita, completa, bene. Se si deve andare a fare una richiesta per avere uno spazio, intanto utilizziamo lo spazio per il massimo di attività che possiamo svolgere su quel territorio. Bisogna sempre distinguere quella che è l'azione, quella che una volta si diceva l'azione di massa, cioè organizzata nei quartieri, fra la gente, fra i lavoratori, da quella che è l'organizzazione, che è il compito specifico di un'organizzazione politica o di più organizzazioni politiche che hanno già chiaro quelli che sono i propri obiettivi politici e che cercano di inoculare nella società l'idea appunto della rivoluzione. È una questione antica, ma che si prospetterà di nuovo, perché le cose stanno così, insomma. A un certo punto, se vogliamo cambiare questa società, è necessario organizzarsi, è necessario organizzare innanzitutto il più largo possibile numero di persone. Non possiamo pensare che noi organizziamo solo il nostro microcosmo. Dobbiamo pensare anche alle persone che sono più lontane da noi, culturalmente e politicamente. Dargli gli strumenti per autoemanciparsi. C'è un metodo, quello che propone Bucci in questo caso, è quello dell'auto-organizzazione, dell'assemblea popolare e della democrazia diretta, che è sicuramente un metodo intermedio per la finalità, diciamo, complessiva, che è quella che necessita della trasformazione di questa società. Se posso aggiungere, l'avevo accennato prima, ecco, il cyberspazio, il mondo di internet può essere un ulteriore spazio in cui creare coordinamento, fare conoscere quello che si fa. Ecco, già la possibilità di disporre di uno spazio sul web dove comunicare quello che viene fatto qui, ma anche quello che viene fatto nel paese vicino, quello che viene fatto dall'altra parte del mondo, può essere un primo momento, modo per creare aggregazione. Per esempio c'è questo movimento per l'ecologia sociale, che è arrivato già al suo secondo incontro internazionale, è stato tenuto a fine ottobre a Bilbao, ce n'è stato uno l'anno scorso, nel 2016 a Lione, uno nel 2017 a Bilbao, 300-400 persone, europei, anche alcuni curdi, zapatisti, turchi, si sono riuniti, si riuniscono e cercano di proporre, non solo, ecco, persone che già lavorano nel locale, di proporre anche momenti di aggregazione in cui discutere assieme un proprio progetto più, più globale. Qualcosa si sta muovendo, molte volte è proprio una questione che manca la capacità di vedere o di farsi vedere, di far conoscere a chi opera nello stesso modo nel resto del mondo quello che si sta facendo. Se non ci sono altri interventi, possiamo anche chiudere qui. Intanto ringraziamo gli organizzatori e lo spazio per l'ospitalità. Speriamo che lunga vita a questo spazio, e soprattutto so che state organizzando un festival di letteratura sociale, per cui auguri per la buona riuscita del vostro festival. Grazie ancora. Grazie.